La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie per l'ascolto come sempre in diretta o in podcast e vi ricordo come sempre l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per osservazioni, proposte di trasmissione e così via. In questo venerdì 3 giugno è una puntata di riflessione che spero non farà arrabbiare troppo chi ha delle idee molto puntute sull'argomento, ma che serve invece a equilibrare l'informazione che secondo me nel nostro paese sul tema di cui parliamo oggi è un po' troppo squilibrata da una sola parte. Lo spirito e l'occasione per consentire di fare questo riequilibrio, parliamo di OGM, quindi stiamo parlando di geneticamente modificato sulle coltivazioni, la sicurezza alimentare e così via, una classica campagna in cui c'è una voce prevalente nel nostro paese, ma lo spirito che mi anima riguardi l'economia, le banche, riguardi i dati della produttività, riguardi tutti i fenomeni della realtà è sempre lo stesso, quello di tentare di fare un'informazione basata su evidenze. Le evidenze sono quelle fattuali, in questo caso visto che parliamo di OGM, sicurezza alimentare e di economia, stiamo parlando anche, a differenza delle scienze sociali come l'economia, di evidenze scientifiche, cioè quelle comprovate da una letteratura basata secondo le regole della scienza sperimentale, cioè quella per cui l'evidenza deve essere sempre sottoposta alla peer review che si fa sulla prova dell'autofalsificazione e replicabilità degli esperimenti, ed è così che noi da secoli, no, dai tempi di Galileo, andiamo avanti nell'accumulare delle ragionevoli certezze con questo criterio e questo metodo. Allora, lo spirito con cui parliamo oggi dell'argomento OGM nasce da un libro che io considererei molto utile per chiunque di voi, comunque la pensa, su questo delicato argomento di leggere. Come si intitola questo libro? Si intitola Il caso OGM, il dibattito sugli organismi geneticamente modificati. L'editore è Carocci e l'autore è uno che non è un giornalista divulgatore, ma è uno scienziato, perché è il direttore del laboratorio di biotecnologie microbiche all'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR, cioè Consiglio Nazionale delle Ricerche, di Napoli, e si chiama Roberto Defez. E io lo ringrazio di non solo aver scritto questo libro, ma anche di essersi messo a disposizione con noi in questa mezz'ora per parlarne. Buon pomeriggio e grazie Roberto Defez. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Allora, c'è anche un'altra questione che riguarda invece il giornalismo e l'informazione, perché io dall'inizio ho detto che credo che ci sia un grande problema, per cui c'è anche un ospite che a quale chiedo di fare la controparte per spiegarci come mai l'informazione sta tutta da una parte piuttosto che dall'altra, e cioè tende a ignorarlo, il metodo scientifico per affrontare questo argomento. Quindi è con noi anche Luciano Cappone, giornalista del Foglio. Grazie Luciano. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Allora, Defez, io salterei, ma invito tutti coloro che sono in ascolto, non so, a leggere il libro, ma a iniziare fin dall'inizio a capire come nei 10.000 anni che abbiamo alle spalle, quelli che sono decisivi per le tre culture di fondo che hanno consentito tutto ciò che è l'innovazione nella storia relativamente moderna dei nostri tempi, perché sono tre grandi culture di cereali, il riso in Asia, e il frumento in Mesopotamia e il mais nel Centro America, a leggere il capitolo iniziale in cui si capisce che in realtà fin dall'inizio il relativo nuovo coefficiente di benessere rispetto a centinaia di migliaia di anni di vita stentata degli uomini su questa terra deriva dal fatto che si incrociano i semi e li si ibrida. È così, ma non lo si fa con le tecniche di bioingegneria all'epoca, giusto? Sì, viene inventata l'agricoltura, viene fatta una scelta che io spiego essere una delle più devastanti scelte ambientali, ossia decidere che un seme si deve riprodurre, tutti quei semi dello stesso genere, e quindi i campi vengono allestiti per favorire la crescita solo di quella tipologia di semi. Quindi l'opposto di quello che succedeva fino a quel punto, in cui chiunque, qualunque pianta poteva competere per crescere, e soprattutto comincia una progressiva, sistematica selezione di semi, di piante che sono l'opposto l'opposto della selezione naturale, sono piante innaturali, nel senso che non resisterebbero, non sopravvivono in natura se noi non le proteggiamo, non le aiutiamo. È una selezione di piante fatte dal predatore. Quello che io cerco di spiegare è che noi siamo i predatori delle piante, noi mangiamo i figli delle piante. Non esiste una natura che beneficamente, automaticamente, per un piano sovraordinato o da sola vada avanti per produrre delle piante nate per sfamarci. Lei dice, anzi, al contrario, l'abbiamo selezionate come un gatto selezionatore seleziona i topi per farsi saltare in bocca. Esattamente, questo è il punto di partenza di questa vicenda. Se noi non capiamo che abbiamo spogliato progressivamente le piante di tutte le loro caratteristiche disgustose, che sono pensate dalle piante per mettere i propri semi, quindi i propri figli, la futura generazione, le migliori condizioni di crescita, se non capiamo che noi stiamo facendo l'opposto, le stiamo rendendo piante succose, dolci, con grandi frutti, per esempio con delle bucce molto sottili, perché a noi non piace la buccia, tanto per dirne una, ma questo è l'opposto di quello che farebbe un genitore protettivo, cercherebbe di corazzare la futura generazione, di proteggerla meglio per permetterle di nascere, di crescere, di svilupparsi. Ecco, noi abbiamo selezionato piante per noi, abbiamo invertito il corso della selezione naturale perché avevamo bisogno di alimentarci, ed è stato uno straordinario successo dell'umanità quello di passare a una dieta e a un allevamento, perché vanno insieme le due caratteristiche, che ci facesse smettere di essere dei cacciatori-raccoglitori. Eravamo in pochissimi sul pianeta Terra, pochi milioni di persone, siamo già 7 miliardi, ne diventeremo quasi 10, e dobbiamo capire che quest'idea bucolica della natura buona, pulita e giusta è un falso mostruoso e pericoloso in parte. Allora, diciamo, tutto quello che si accumula in questa arte ibridatoria totalmente umana e non naturale, in migliaia di anni, porta più o meno a mezza tonnellata per ettaro di frumento. Poi c'è una seconda rivoluzione, arriva la rivoluzione industriale, cioè quella chimica, che innalza, è la rivoluzione verde, consente di far sopravvivere miliardi di persone salvando la morte per fame in India, in Cina, eccetera, eccetera, ed è la cosa su cui si iniziano ad alzare le barriere. Troppa chimica, si dice. Terza evoluzione, sto sintetizzando, quindi dicendo delle banalità, mi scuso con Defez, ma naturalmente il nostro tempo è limitato, quella che poi spacca definitivamente, perché di fronte agli eccessi della chimica, ecco che sorge l'obiezione, e altro che procedere a questo punto con la bioingegnerizzazione, cioè con modifiche selezionate, limitatissime del patrimonio genetico delle piante, per ulteriormente aumentare la produzione, sì, ma soprattutto per contenere gli effetti negativi della manipolazione umana e anche per contenere quelli dell'eccesso della chimica in agricoltura. E invece a quel punto l'obiezione diventa radicale, dice no, bisogna smettere con tutto. Allora, questo secondo e terzo passaggio è la complicazione vera da spiegare a chi non ha, perché è fondamentalmente convinto che sia nelle mani di una cupola di multinazionali straniere che, dalla manipolazione dei semi agli investimenti attraverso voi specialisti sulle bioscienze e la bioingegneria delle piante, sia in realtà un enorme complotto per far fare miliardi a pochi, e che è un vero e proprio attentato alla salute della gente. Perché? Diciamo intanto perché l'evoluzione delle conoscenze e l'evoluzione delle tecnologie richiedeva appunto di smettere di eccedere nell'utilizzo di alcuni composti chimici per avere non solo un ambiente più sano, ma dei suoli più fertili soprattutto, e quindi una migliore produzione vegetale. Quando le conoscenze sono riuscite ad avanzare seriamente, quindi nel secondo dopoguerra, era chiaro che potevamo fare tutto questo, come dire, con la luce accesa, guardando negli occhi la genetica, la produzione alimentare, quindi riuscendo a progettare i miglioramenti che fino a quel punto avevamo solamente visto accadere casualmente, senza conoscerne neanche la base, la logica, le ripercussioni, perché poi ogni cambiamento porta delle ripercussioni. Lì, soprattutto in alcuni paesi, si scatena una angoscia ancestrale, un un senso di repulsione, una reticenza all'innovazione, all'avanzamento delle conoscenze e al fatto che si portano documentazioni di quanto sia vantaggioso tutta questa attività umana e quanto sia cosciente, nel senso che per la prima volta l'uomo vede e progetta come vuol far migliorare le piante e perché le vuole far migliorare, a che cosa mira. Fino al secondo dopoguerra semplicemente aspettavamo che succedesse qualcosa. Dopo aver aspettato per millenni che succedesse qualcosa, non ce l'abbiamo fatta più a aspettare e abbiamo mutagenizzato noi le piante, cioè abbiamo usato le radiazioni ionizzanti dell'energia nucleare capita tra le due guerre per mutagenizzare, per dire cambiare il progetto genetico delle piante, a casaccio però, in maniera non progettata, senza sapere dove andare e in che direzione fare. Ecco, il paradosso è esattamente questo. Noi in questo momento stiamo mangiando 2536 varietà commerciali di tutti i tipi di piante, dalle ciliegie alle melanzane, dal grano al riso, mutagenizzate con radiazioni di composti radioattivi e queste non sono descritte come OGM, non vanno regolamentate come gli OGM, non subiscono le centinaia di controlli di sicurezza alimentare che subiscono le piante definite OGM, eppure sono geneticamente modificate. Se si vuole vedere la lista di queste piante, sono sul sito dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, cioè quella di Vienna che sta discutendo del nucleare iraniano. Ecco, lì si trovano la lista di 2500 e passa varietà commerciali di piante che stiamo mangiando da 40 anni perlomeno e che non hanno mai subito una validazione di sicurezza alimentare. Ecco, è impensabile per, come dire, un genetista, ma per una persona che conosce il minimo del metabolismo delle piante, pensare di poter continuare ad andare a casaccio in questo modo, a rivoluzionare tutti i geni di un organismo. L'idea è smettere di andare a casaccio e andare nel luogo giusto, nel posto giusto, conoscendo esattamente tutto quello che fa, non solo quel gene, ma le proteine che produce e tutto il metabolismo della pianta, per fornire un prodotto che deve essere sicuro da un punto di vista ambientale e sanitario soprattutto. Ecco, soltanto accendendo la luce noi possiamo progettare piante che siano utili ai nostri scopi, ai nostri intenti. E per gli scienziati italiani questo, diciamo, io lo distingo dagli scienziati internazionali in un senso, alcuni certamente lavoreranno per grandi commodities, grano, mais, soia soprattutto, ma gli scienziati italiani lavorerebbero quasi esclusivamente per tutelare la perdita delle varietà tipiche locali, quindi per proteggere la biodiversità che noi perdiamo in continuazione. La perdiamo per la banale ragione che mettere una pianta in campo significa dar da mangiare ai parassiti, significa selezionare parassiti sempre più adatti a quella pianta. Quindi o li riempiamo di insetticidi o di fungicidi, come stiamo facendo in questo momento in Italia, oppure decidiamo di andare per un'altra strada in cui la pianta è più forte contro e si protegge dall'aggressione dei parassiti. Eppure io sono convinto di una cosa, che la grande presa che ha il no pregiudiziale a questi ragionamenti, proprio applicata a un esempio che lei fa e che discende esattamente dal punto finale in cui ha concluso le sue osservazioni adesso, cioè quello degli insetticidi. Lei fa l'esempio del BT, il caso della tossina BT del Bacillus thuringiensis. Che cos'è? Per parlarci chiaro, per chi ci ascolta, questa tossina nelle spore del batterio è uno dei più diffusi insetticidi usati dall'agricoltura biologica. E questo a chi dice di no va bene. Perché va bene però? Va bene ignorando che in realtà questo insetticida, usato così com'è, naturale, comporta centinaia di altre sostanze che sono in gran parte ignote. Se invece lo si fa con una tecnica ben ingegneristica, cioè si isola un solo gene rispetto all'intero l'intero batterone della spora, allora questo diventa un OGM, ha paura perché a quel punto è intervento umano. In quanto tale, in quanto presunto naturale, va bene, ma l'effetto è molto più inquietante se non si usa la selezione genetica. Nella mia sintesi ho detto stupidaggini, perché se l'ho detto mi corregga, Defez. Assolutamente no, e diciamo, ecco, faccio una piccola aggiunta al libro perché non l'ho messa questo esempio nel libro. Quando noi non ci sentiamo bene, abbiamo qualche linea di febbre, andiamo a prendere un'aspirina. Nessuno di noi va a mordere un salice. Ma è questo l'esempio più corretto, perché l'acido acetil salicilico dal salice viene estratto, certo. Ma nessuno penserebbe di andare a mordere la corteccia o il fusto di un salice. Quindi ragazzi, il messaggio brutale, perché questo Defez non lo scrive così ed è giusto che non lo scriva così, lui fa lo scienziato, io devo fare il comunicatore sintetico, però posso garantire, non sto dicendo una stupidaggine, è che in realtà attenta molto di più alla salute quello che vi spacciano come naturale rispetto a ciò che è invece con una scelta oculata sulla base di ricerche scientifiche, tra l'altro in cui abbiamo sbaraccato il più della ricerca scientifica italiana, che in questo era a livello mondiale all'avanguardia da decenni. Pausa con l'informazione stradale e occupiamoci di capire perché l'informazione però queste robe non le fa passare dopo la pausa. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. La versione di Oscar. Eccoci tornati, cari ascoltatori, questo venerdì 3 maggio. Stiamo parlando, abbiamo approfondito con Roberto Defez, l'autore di questo libro, di cui io vi consiglio davvero la lettura. Il caso OGM, il dibattito sugli organismi geneticamente modificati, 140 paginette in punta di scienza, rigorose, sintetiche, ma chiarissime, sul come e perché le uniche vere, tra virgolette, piante biologiche con cui alimentarsi con il minor rischio di attentati alla vostra salute sono quelle OGM, non il contrario, come dice. È così, e invece noi siamo un paese che si è impregnato di contrarietà pregiudiziale con la politica che si è messa ad andarci dietro, e anzi ci siamo esclusi dalla ricerca, ci siamo esclusi dallo sviluppo futuro che è già iniziato, cioè quello dell'editing genomico, non solo degli interventi selettivi, cioè di una cosa sequenziale molto più ampia che è la nuova frontiera. Niente, noi non possiamo fare neanche la ricerca su questo nel nostro paese, ci vogliono anche dei politici un po' più intelligenti. Ah, vi aggiungo, c'è nel post-scriptum del libro, ma lo dico anche per chi ci ascolta, Roberto Defez, che avete ascoltato, l'autore del libro, non ha mai prodotto una pianta geneticamente modificata, non lo fa, non è questo il suo mestiere, non lavora per le multinazionali, lavora su innovazioni biotecnologiche, sì, però a quel punto i brevetti, quando serve i brevetti, sono tutti per il CNR, quindi ricerca pubblica non è interessata, non è al servizio di nessuno, né io prendo i soldi dalla Monsanto, su cui c'è anche un'offerta di tedeschi, dalla Bayer adesso. È chiaro? Ci sta solo a cuore che capiate questa cosa, che la politica non sia medioevo, com'è nel nostro paese su questo punto. Però il problema è che anche l'informazione è medioevo. Luciano Capone, ma perché? Perché diciamo, da un lato c'è un po' una pigrizia nel ripetere un po' di stereotipi, di racconti della natura bucolica. Anche perché bisogna capirci un po' di scienza, agronomia, ricerca. Sì, in effetti io non sono un esperto, però se si cerca un po' di documentarsi, di informarsi, di rivolgersi alle persone più competenti, si capisce che insomma di dubbi non ce ne sono. Poco fa, diciamo, pochi giorni fa, le accademie delle scienze statunitensi, il massimo organo consultivo scientifico del governo americano, hanno pubblicato un report con gli studi scientifici degli ultimi 20 anni su qualsiasi tipo di OGM che hanno riguardato qualsiasi cosa, hanno stabilito senza alcun ombra di dubbio che gli OGM sono sicuri per l'uomo e per l'ambiente soprattutto, quindi non c'è alcun dubbio. Però diciamo nel lavoro che facciamo sui giornali, in radio o in televisione, spesso è molto più comodo quando si costruisce un prodotto giornalistico su questi temi che si dicono divisivi, quando in realtà poi non c'è una divisione, almeno nei fatti. Si tende per pigrizia a chiamare una persona a favore e una persona contro e metterli sullo stesso piano. Ma no, figurati, ma questa è l'obiezione che mi viene sempre mossa su questi argomenti. Dice, ma qui non c'è la par condicio, cioè la par condicio tra capite, l'astrologia e l'astronomia, ma di che cosa cacchio, come si può pretenderla? Eppure questo è l'argomento. Per anni, tra l'altro, diciamo, sono stati pochi pionieri, ricordo, cioè Dario Bressanini, che è un giornalista scientifico, che per tanti anni ha cercato di smentire una bufala, diciamo, è girata per anni la storia della fragola pesce o del pomodoro pesce con l'antigelo che ha ucciso 20 persone, ne parlavano politici come Beppe Grillo, trasmissioni, le più importanti trasmissioni di inchieste e approfondimento giornalistico del servizio pubblico italiano, ma non è mai esistita, non è esistita in realtà. E adesso, per fortuna, anche molti scienziati che spesso sono stati chiusi nelle loro torri d'avorio hanno capito che bisogna divulgare e parlare con il pubblico, no? Ma no, aspetta, questo tu tendi, ecco, infatti rendiamo onore a chi lo fa impegnandosi sui giornali, Elena Cattaneo straordinaria, Roberto Defez e così via, però Defez, c'è una colpa anche della comunità scientifica, cioè se le università italiane hanno iniziato a organizzare seriamente corsi ufficiali di agricoltura biodinamica come se fosse una disciplina scientifica, la colpa non è anche vostra, della comunità accademica? Assolutamente sì, io trovo una vergogna l'idea che si possa solo pensare di avere un corso universitario sull'agricoltura biodinamica, quindi su una pratica esoterica che prevede... ve ne dico una tra le tante follie, oltre alle vesciche di cervo maschio riempiti di fiori di Achillea come oggetti. Io vorrei sapere se un vegano viene correttamente informato dell'utilizzo di parti di animali, fra l'altro selvatici. Ma insomma, è una vergogna che l'università italiana si presti a fare cose di questo genere. No, perché per chi non lo sapesse, la convinzione di questi signori è che queste robe servono ad attirare le energie cosmiche per migliorare il raccolto. Adesso, scusi, perché non tutti lo sanno, io mi metto a ridere, non ci posso fare niente, per formazione. Però i corsi nelle università li fate fare voi, la comunità accademica. E questo proprio quello che non dovrebbe succedere. E quello che dovrebbe succedere sono tante cose. Per esempio che ci sia un'idea di cosa è parte della comunità scientifica e cosa non rispetta il metodo galileiano, visto che siamo in Italia, possiamo richiamarci al metodo scientifico. Ecco, l'idea che il corno di una vacca riempito di letame possa dare fertilità a un campo se resta per 6-7 mesi sottoterra, io vorrei sapere perché deve essere il corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta, se il corno destro è diverso dal sinistro, se quello di un bue è diverso da una vacca. Ma adesso, senza che ci perdiamo in questo, no, però voglio dire a chi ci ascolta, oltre a, ripeto, leggete il libro di Roberto Defez, il caso OGM, e date più retta a giornalisti che producono, secondo me, evidenze, vi rinviano a documenti di esperti veri. Già vedo le obiezioni che sugli SMS, lo so cosa pensate. Sbagliate, ogni tanto chi fa informazione deve dirvi che ci sono evidenze incontrovertibili, malgrado quello che vi dicono i politici e l'informazione, che c'è un'evidenza a favore dell'OGM e che racconta balle chi dice il contrario, per interesse o per ignoranza, e ci sono molti interessi anche oltre che all'ignoranza. Conclusione di questo mio inutile forse, ma io sono profondamente convinto che grazie a chi come Defez, Luciano Capone, nelle informazioni, nelle scienze, si rimane ancorato al vecchio sano metodo galileano, è questa la maniera per seguire davvero il progresso e per battersi che la gente abbia meno attentati alla sicurezza alimentare e soprattutto per sfamarne sempre più e sempre meglio in tutto il mondo, perdonatemi che non mi sembra così trascurabile. Grazie Roberto Defez, grazie Luciano Capone, continuate l'ascolto con Radio 24.